proposito, cosa c'è da mangiare? Che col casino oggi della mensa mi è toccato saltare anche il pranzo. Sono Marco Balbi, lo spettacolo Diario anni 70 si inserisce in un progetto abbastanza ambizioso del Teatro Filodrammatico. Il casino oggi della mensa. Questa è la terza stagione e il progetto è quello di raccontare i segreti di Milano, la vita di Milano, la Milano meno raccontata attraverso decenni. Cos'è? Non sai leggere. Il momento, abbiamo cominciato due stagioni fa con gli anni 50, abbiamo proseguito con gli anni 60 nella scorsa stagione e adesso siamo felicemente approdati a questi anni 70 che hanno visto alcuni, se non altro, degli attori che recitano sul palcoscenico viverli direttamente sulla propria pelle. Sono Gianni Quilico, il mio personaggio si chiama Mauro ed è il proprietario di una radio libera, Radio Cielo Rosso. Siete sempre sintonizzati su Radio Cielo Rosso e questa è Notte Aperta. Questa è notte aperta. Questa radio sta chiudendo. Radio Cielo Rosso chiude. Il giorno dell'annuncio della chiusura è il 18 marzo 1978. Parafrasando il mio amico Gino Finardi, potrei dire che sia una radio libera, e libera veramente, ma per noi è durato troppo poco, soltanto 2 anni. Sono anch'io al terzo appuntamento, ho fatto sia anni 50 sia anni 60. È stato molto divertente lavorando con colleghi molto più giovani di me, ma con qualche decennio, parecchi decenni di differenza, raccontare un po' com'erano gli anni 70. È incredibile, ma radio libera è un'espressione già vecchia, obsoleta. Oggi si parla di network. Questo personaggio appunto rifiuterà di diventare imprenditore dell'etere, come dice testualmente, e di far parte di un network, e chiuderà piuttosto di fare questo salto di qualità che però lui considera ovviamente in senso negativo. Lui vuole soltanto fare la radio libera, come dice Eugenio Finardi. Come se fossimo in America. Come se fossimo. Io sono Giovanna Rossi e nello spettacolo interpreto due personaggi. Il primo è Isabella, il secondo è la Gina, moglie del Brambilla. È buonissima. E sarà buonissima per i cani e per i gatti. In realtà il pezzo è tratto da Non pago, non pago di Dario Fo e Franca Rame ed è il racconto di un esproprio proletario fatto da questa casalinga. Non c'era altro, poi guarda, nutriente, non contiene estrogeni, è ricca di proteine, è squisita, c'è anche scritto. Io nel 78 avevo 8 anni, per cui in realtà quei fatti che noi andiamo a raccontare in tutto lo spettacolo non li ricordo direttamente, o comunque ero piccola. Gina, te me c'ha peperec. Io sono Andrea Lapi e interpreto il personaggio di Carmelo. Paolo, io sono d'accordo, Paolo, sulle spoglie dei supermercati. Carmelo è un ragazzo siciliano, sono siciliano anch'io, anche l'attore è siciliano che lo interpreta. L'esproprio è una cosa che conta. Carmelo è uno spacciatore, non che non abbia un cuore, che non abbia un lato umano, è piuttosto tranquillo, però Carmelo è uno spacciatore che vive le sensazioni, gli stati d'animo. Per prendere roba da mangiare, non è che noi prendiamo in gioco. Gli scontri con la polizia. Poi sono arrivati i Caramba. Le differenze di pensiero con gli amici più anziani di lui, le vive in maniera molto carnosa, da buon siciliano. Noi abbiamo risposto con le bottiglie, i sassi, i pelati che ci avevamo impelati. Io sono Francesca Minutoli e nello spettacolo interpreto due ruoli, quello di Giovanna e quello della Silvana. Paolo, sono nei casini. Casini brutti. La Silvana è la spalla della Gina nella pièce di Dario Fo, che vive indirettamente l'esproprio proletario come racconto quasi fantastico di questa esperienza che l'amica ha vissuto invece in prima persona. Ma perché non capisci? Per te è tutto facile, giudicarmi, urlare anche, bravo. Mentre Giovanna è quella che prende la strada della lotta armata ed è costretta da questa sua scelta a interrompere i legami che fino ad allora invece l'avevano accompagnata, in particolare in questo caso il legame con Paolo. Furia di pallottole, anche il cielo è diventato di piombo. Che è il suo compagno da un po' di anni, che invece ha deciso di fare una lotta più dentro le convenzioni. Cosa mi suoni, Cifa? Un pezzo per tirarti su. Dai, che parla dell'amicizia. Grande. Ha scritto una bella. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing more, nothing going right. And close your eyes and think of me. Sooner we'll be there at a brighter night, or even your darkest night. Mm-hmm. You just call out my name, and you know. Wherever I am, I come running. see you again. Winter, spring, or summer, or fall, all you gotta do is call, and I will be there. Yes, I will. Hey, you got a friend. You got a friend. Oh.